La gazza vestita con le penne del pavone, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Si narra che una gazza, trovate un giorno d'un pavone le penne, con arte intorno a sé le accomodò. A far mostra di sé quindi la pazza, con aria di persona alta e solenne, per il cortile tra i pavoni andò. Ma conosciuta a un tratto, ecco la fischiano, l'insultano, l'incalzan, la berteggiano, la beccan, la spennacchian. Mezza morta, fra le sue pari allor scappa la misera, che in faccia ora le chiudono la porta. Oh, quante son le gazze come questa al mondo, che le altre penne si vestono, che dei plagiari formano la casta, potrei scaldarmi contro lor la testa, ma ciò che ho detto basta. Fine della favola, la gazza vestita con le penne del pavone. Questa registrazione è di dominio pubblico.